Flavio Briatore, buongiorno e benvenuto a Radio 24. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. E cos'è sta storia che chiude il Billionaire? Forse l'ultima stagione? Si è stancato dell'Italia? Ha parlato male dell'Italia? No, io non ho parlato male dell'Italia, ho parlato male della politica dell'Italia. È la politica che... Mi sono stancato perché, prima di tutto, Billionaire lo venderò, non è che chiuda un'attività con 200 rotti dipendenti, cercherò anche che i nuovi clienti mantengano i posti di lavoro in Sardegna e negli altri posti che abbiamo in Italia. Il Twiga Forte dei Marmi, che impiega anche lui un centinaio di persone. E quindi non è una vendita, visto che per me in Italia è molto molto molto difficile operare. Noi operiamo in una nicchia che è il lusso, e questa nicchia qui, il turismo, il turismo superiore, io non mi occupo di campeggi, mi occupo di un turismo particolare in Sardegna, e in questo momento qui in Italia si fa tutto per mandare i turisti, e a questo punto qui non mi sembra più logico continuare a remare contro una tendenza che è quella, cioè in Italia noi non vogliamo i turisti, facciamo di tutto perché gli italiani vadano a spendere i soldi fuori dall'Italia, e facciamo di tutto perché chi arriva fuori dall'Italia non spende i soldi in Italia. Mi sembra una logica di mercato completamente assurda. Senta, sa che ci sono stati dei commenti, per esempio ieri, non so se l'ha visto, Francesco Merlo su Repubblica, so che lei è all'estero, molto molto dure a dire c'è un pezzo d'Italia che non rimpiange la chiusura di questa Italia vissuta in maniera un po' di sfrenato lusso, anche un po' pacchiano e maleducato, ecco. Ma io prima di tutto non capisco cos'è il pacchiano, il maleducato. Chi parla così è mai stato il Billionaire Cipriani, perché in Sardegna abbiamo sia Billionaire che Cipriani. Da noi sono passati tutti, vengono tutti. Questo Merlo, che onestamente non ho il piacere, ho fatto un'informazione, credo, con dei miei amici giornalisti, mi ha detto che è un tipo fighetta, radical chic, vive a Parigi e pontifica. Io non credo a questo Merlo che abbia creato posti di lavoro. Lui vive a Parigi. Ecco, questo è il personaggio, no? Quindi è un fighetta radical chic che la critica. Ma sì, sono la sinistra. Noi abbiamo una sinistra che odia tutti quelli che hanno fatto successo. Questo Merlo parlava di macchinette, no? Io in Formula 1 ho vinto 7 mondiali. Sono l'unico al mondo di aver vinto i mondiali con due team diversi. Ma nessuno ci è riuscito. Poi questo Merlo, che lavora per un gruppo a cui vedo che piace anche lo champagne, perché vediamo anche le foto di Galliani in Sardegna, e questo fighettino, questo modello fighettino Merlo, avesse avuto un fratello, un figlio, una moglie che lavora al Billionaire, sicuramente non avrebbe detto questo. Però l'accusa, dovrebbe occuparsi del suo gruppo. L'accusa, sa qual è, Briatore? Che la ricchezza non è una colpa, ma la ricchezza magari esibita in maniera sfacciata, forse sì. Qualche foto l'abbiamo vista, qualche esibizione di festa. No, stiamo facendo noi delle joint venture con i più grossi gruppi alberghieri. Abbiamo chiuso una joint venture col Fairmont per l'apertura di 5 locali. Abbiamo aperto Cipriani un mese fa qui a Monte Carlo, Billionaire a Monte Carlo, il 5 apriamo Billionaire a Marbella, il 28 giugno apriamo un Billionaire a Bodrum, siamo a Istanbul. C'era un altro che non mi ricordo, in Sardegna logicamente quest'anno apriamo. Abbiamo fatto una joint venture col gruppo Hilton per Las Vegas, Dubai. Per cui negli altri paesi i Billionaire, le faccio un esempio, io sono atterrato a Marbella dopo un'ora e un quarto, davanti nell'ufficio del sindaco di Marbella, il quale mi chiedeva cosa poteva fare lei, l'assessore al turismo, per agevolare l'apertura per l'estate. Insomma, dice all'estero porte aperte, in Italia porte in faccia. Questo no, è... ma vedi, è il gruppo, perché io ho i giovani che adorano, vengono. Però il signor Merlo dovrebbe occuparsi del suo gruppo. De Benedetti ha una casa in Sardegna, credo che l'abbia venduta per 107 milioni, ha una barca, come però De Benedetti la barca è un santo. De Benedetti, il gruppo, ha un debito è stato condannato di secondo grado per evasione fiscale per 235 milioni. De Benedetti ha ammesso di aver ricevuto, di aver pagato tangenti quando erano Olivetti alle Poste. Credo che sia anche stato registrato a Re Bibbia e poi andato ai domiciliari. Gallan, che pontifica, anche lui in Sardegna. Lo champagne a questi qui piace a tutti. Insomma, il problema è che loro sparano sul mucchio e non capiscono che i posti di lavoro in Italia si dovrebbero creare sull'eccellenza, sul lusso, la moda, i musei, il turismo. Loro sparano, gli italiani si sparano sui piedi. Io non ho bisogno di avere della gente che ti pontifica, lascio, non c'è nessun problema. L'unica cosa che dico è che un imprenditore in questo momento in Italia fa fatica, non può lavorare. Senta, ma lei sente, Flavio Briatore sente la crisi? Se percepisce la crisi? No. Il nostro settore, noi abbiamo fatto annunci in Sardegna, stiamo assumendo. Noi a Forte dei Marmi abbiamo fatto gli annunci, stiamo assumendo. Noi in Cipriani e Monte Carlo abbiamo 120 dipendenti, stiamo cercando un altro 30. Ogni milionario impiega grosso modo 100 persone, la crisi non c'è, assolutamente. Se sai fare il turismo fatto bene, se sei un'eccellenza, se non competi con la massa e i prezzi sono corretti, la qualità è corretta. Io le dico una cosa, noi in Sardegna, mi sono fatto dare i dati perché sapevo di parlare con voi, negli ultimi 5 anni di fornitori sardi, partiamo, soldi investiti sul territorio, sono circa 18 milioni di euro. Alla SIAE abbiamo pagato circa 1 milione e 800 mila euro, di dipendente abbiamo pagato salari per 6 milioni di euro, affitti per le case pagati ai sardi 5 milioni di euro. Le tasse, intanto lei paga l'IMU in Italia, immobile, paga l'IMU? Ma io in Italia non ho proprietà, non è proprietà. Saranno delle società che perché il 18, che il 18 c'è la scadenza. C'è la scadenza il 18. Lei non è uno di quelli che brucerebbe l'F24? No, se c'è da pagare, uno deve pagare. Però tornando al discorso suo, il billionaire in 5 anni ha dato imposte, tasse, abbiamo pagato circa 2 milioni, 1 milione 980, per cui, e lavorando 2 mesi all'anno, per cui io credo che l'imprenditore deve avere la creatività di creare posti di lavoro e li deve creare dove il paese glielo permette. Ma perché dice che Monti ha instillato l'odio sociale? Io non c'ho. C'è un odio in Italia sociale innescato dalla sinistra, da questi professorini che se uno ordina una bottiglia di dolcetto al ristorante ha paura di essere guardato male, se uno c'ha una macchina superiore, una Lancia Delta, una Mercedes, ha paura di essere, non parliamo di una Ferrari, non parliamo di una Maserati, non parliamo per cui noi stiamo criminalizzando chi paga le tasse, chi ce l'ha fatta. Riguardo a me, io mai avuto nessun, io non sono stato ancora rinviato a giudizio nella situazione della barca dello yacht, le accise sul gasolio, questa era l'accusa l'accusa era quella, detto che la mia barca faceva charter, dimostreremo in tribunale a processo che faceva charter, io sono mai stato condannato in Italia per evasione fiscale, ho mai avuto controlli sia a Twiga che a Billionaire, se lo puoi immaginare. Non abbiamo mai avuto nessun tipo di evasione fiscale, ecco, questo per essere chiari. Però Monti dice così forse perché in Italia c'è un'evasione fiscale incredibile, cioè le pagassero tutti le tasse, allora Monti dice una cosa normale, dice pagate tutti le tasse, cari italiani. No, ma sicuro. E siccome se non le avete pagate adesso basta, è finita la favola. Io vivo in Inghilterra, ho 23 anni e le tasse le paghi le tasse del 27-28%. Io sono convinto che se tutti pagassero le tasse ne pagheremmo tutti di meno, però dovrebbero funzionare gli ospedali, dovrebbero funzionare le poste, dovrebbero funzionare i treni, dovrebbero funzionare tutto quello per cui un cittadino paga. Io sono d'accordo con lei, ma ci sono modi e modi per far pagare le tasse. Quello di Equitalia, per esempio, le piace quello di Equitalia? Ma io non lo conosco, non ho rapporti con Equitalia, però credo che se uno vuol sapere a chi è registrato una barca, una moto, una macchina, ci sono gli appositi uffici e uno le va a controllare. noi quando pensiamo che i controlli che facciamo in Italia rimangono nell'ambito italiano, non è vero, perché ormai internet e media, le comunicazioni sono immediate, per cui gli stranieri hanno, perché noi dobbiamo allontanare gli stranieri e i turisti? Ma perché con 8-9 mila chilometri di coste noi non facciamo una politica, non abbiamo un ministro del turismo che sia un ministro importante, un ministro che faccia la strategia per i prossimi 50 anni? Abbiamo le eccellenze, abbiamo tutto, abbiamo gli italiani, il loro savoir-faire, e invece siamo sempre noi che ci facciamo i danni. Ma perché lei manca, cioè non le sembra di mancare di riconoscenza a un paese che le ha fatto anche fare affari a 5-0, insomma a 6-0? Fare 5-0 in Italia non l'ho mai fatto, mai avuto un aiuto da una banca, ho sempre investito. Beh, anche le cifre che ci ha dato lei sul milionaire, attento. Dato che il milionaire lo trattano come una bottega di cafonare, dico solo che la gente che lavora al milionaire, questo merlo, se avesse avuto un figlio, una figlia che lavora da noi, non parlerebbe così. Ma i dipendenti sì, però un po' di cafonaggine non c'è al milionaire, un po', no. Ma cosa vuol dire? Un po' di esibizione così? Ognuno fa il suo lavoro, credo che tu devi gestire il lavoro in base ai clienti che hai. E poi io quando parli di servizio, parli di milionaire, ma scusi, perché il milionaire, se avesse tutta questa immagine, dovrebbe avere delle joint venture con i più grossi, i più importanti gruppi della ristorazione e della food and beverage del mondo. Ci sarà un motivo. Mi dica di politica, lei chi verrebbe, no, chi vedrebbe la guida? Io non sto parlando male dell'Italia, sto parlando della politica italiana, certo, visto che ha detto anche la politica italiana, ci dica chi vorrebbe la guida dell'Italia. Monti le piace? No, ho capito. No, ma non c'entra Monti, io credo che Monti quando è arrivato ha una chance incredibile di fare quello che avrebbe dovuto fare, cioè tagliare la spesa pubblica partendo proprio dalla casta e dalla politica. Aveva un potere enorme in un momento di emergenza, nei momenti di emergenza si prendono le decisioni emergenti. E non l'ha fatto. Dovrebbe essere lui a eliminare l'80% dei politici e dei costi che abbiamo, perché per gestire l'Italia non servono 1000 persone, servono 150 persone, magari pagate bene e che facciano bene, cioè 1000 persone che gestiscono l'Italia come l'hanno gestita, non credo che sia stato... Il suo giudizio, facciamo una pagella, il suo giudizio da 0 a 10 a Monti, mi dia un voto così, giusto per... 5 a Monti. E invece Beppe Grillo le piace, il nuovo che avanza? Ma Beppe Grillo dice delle cose un po' surreali, però dice anche, Beppe Grillo dice, la gente non è più dei politici, per cui io penso che chiunque dica delle robe un po' diverse viene premiato, ma questo, l'Italia ha bisogno della politica, l'Italia ha bisogno della politica forte, l'Italia ha bisogno del ritorno dei politici, perché in questo momento qui noi ci siamo ancorati, credo che sia 8 mesi che sento parlare di questo articolo 18, ma io nel mio lavoro l'articolo 18 è mai stato, parlando con i miei manager, mai stato un grosso dramma. Io in che senso? Credo che se avessero parlato di defiscalizzare i giovani invece di avere i giovani che sono senza lavoro, fare una politica di defiscalizzazione dei giovani, fare una flessibilità di lavoro stagionale, flessibilità chiamata, intanto per muovere un po' l'economia, perché l'Italia è come una grande società, si è fatto un aumento di capitale pagando le tasse, però se la società non comincia a guadagnare non puoi fare aumenti di capitale tutti gli anni. È questo che mi preoccupa, che non c'è nessun movimento, non vediamo nessun movimento per lo sviluppo del paese, per i giovani, non c'è chance, non c'è assolutamente zero. È un paese ingessato, è un paese che non cresce, è un paese che decresce. Questo è un peccato, perché io amo l'Italia, amo gli italiani, però non amo chi guida l'Italia, non amo come è stata guidata l'Italia negli ultimi 20 anni. L'ultima domanda, visto che abbiamo un minuto, lei si è sempre accompagnato, si accompagna bellissime donne, ma guardi la politica, c'è una donna che l'attrae, le piacerebbe? In politica, una politica con la quale si accompagnerebbe, che frequenterebbe? Ma io mi accompagnerei una cena con Daniela Santanchè, che è una mia amica. Ah beh, sua socia, che vuol dire? Sua socia, il Twiga, una cena, un'amica, è un'amica, una cena con Daniela Santanchè, è una non risposta. Non so, chi altro l'attrae? Facciamo queste senza Daniela Santanchè. Ma guardi, io non... una donna in politica che mi attrae, parliamo del gruppo professori o parliamo del gruppo quello che vuole, quello che vuole, anche professori, mi dica, sono allora, politico. C'è una signora che io però non mi ricordo il nome, che credo che sia del Partito Democratico, una signora con gli occhiali, che credo l'altra settimana si è vista in giro con la scorta nei supermercati. Ah, la Finocchiaro, Esatto. La Finocchiaro, andrei volentieri a cena con la Finocchiaro.